Alla stazione dei carabinieri. Allora, maresciallo, è tutto a posto? Certo, certo, però signorina, si ricordi, bisogna sempre avere un documento d'identità. Yes, sì, certo. Non si preoccupi, maresciallo, non succederà più, vero Sara? Oh, no, never. Bene, arrivederci. Arrivederci e grazie.